Ballò poi con un ufficiale ed ebbe il sollievo di poter parlare di Wickham e di sentire che gli godeva della unanime popolarità. Terminati quei giri, tornò da Charlotte Lucas e stava appunto conversando con lei quando si sentì improvvisamente rivolgere la parola dal signor Darcy, che la colse tanto di sorpresa con la richiesta di un ballo che, senza sapere quel che si facesse, acconsentì. Darcy si allontanò subito ed Elizabeth rimase a rodersi per la propria mancanza di presenza di spirito. Charlotte tentò di consolarla. Vedrai che lo troverai simpaticissimo. Che il cielo me ne guardi, questa sì che sarebbe una bella sventura. Trovar simpatica la persona che ci si è prefissi di detestare. Non augurarmi una disgrazia del genere. Tuttavia, riprese le danze, quando Darcy si avvicinò per reclamare il suo giro, Charlotte non poté trattenersi dall'ammonirla sottovoce di non fare la sciocchina e non permettere che la simpatia per Wickham la rendesse sgradevole agli occhi di un uomo che lo valeva 10 volte. Elizabeth non rispose e prese il suo posto fra le coppie, stupita della dignità a cui era stata innalzata con lo stare di fronte al signor Darcy, e leggendo lo stesso stupore negli occhi dei vicini che lo constatavano. Stettero un po' di tempo senza dir parola, ed ella cominciava a pensare che quel silenzio dovesse durare per tutti e due i giri, tentata sulle prime di non romperlo. Finché, sospettando a un tratto che per il suo cavaliere sarebbe stato castigo maggiore l'essere costretto alla conversazione, lasciò cadere qualche commento insignificante sul ballo. Egli rispose e poi tacque nuovamente. Dopo una pausa di qualche minuto si rivolse a lui una seconda volta con queste parole: Tocca a lei ora dire qualcosa, signor Darcy. Io ho parlato del ballo. Lei dovrebbe fare qualche osservazione sulle dimensioni della sala, il numero delle coppie. Egli sorrise. E le assicurò che avrebbe detto qualunque cosa ella avesse desiderato fargli dire. Molto bene, allora. Per il momento, codesta risposta può bastare. Può darsi che fra non molto io osservi che i balli privati sono preferibili a quelli pubblici, ma per adesso possiamo star zitti. Allora lei parla secondo la regola quando balla? Qualche volta. Un pochino si deve parlare, lei lo sa. Sembrerebbe strano starsene zitti zitti durante la mezz'ora che si passa insieme. Tuttavia, per il bene di certuni, la conversazione dovrebbe essere combinata in modo da costringerle a dire il meno possibile. In questo momento sta consultando i suoi sentimenti o immagina di far cosa gradita ai miei. Tutte e due le cose, rispose maliziosamente Elizabeth, già che ho sempre constatato grande affinità di spirito fra noi due. Siamo entrambi di temperamento poco socievole, taciturno, e non parliamo volentieri, salvo quando ci si ripromette di dire qualcosa che meravigli tutto l'auditorio. E si è tramandato ai posteri con tutto il lustro che spetta un proverbio. Codesto quadro del suo carattere non è affatto somigliante, ne son certo, gli disse. Quanto poi esso rifletta il mio, non posso pretendere di dirlo. Indubbiamente le crede di averne fatto un ritratto fedele. Non tocca a me giudicare della mia bravura. Egli non rispose e di nuovo stettero zitti sino alla fine del giro, allorché egli le domandò se si recasse spesso a Meryton a piedi con le sorelle. Ella rispose di sì e, incapace di resistere alla tentazione, soggiunse: Quando lei ci incontrò l'altro giorno, avevamo appena fatto una nuova conoscenza. L'effetto fu immediato. I lineamenti di Darcy si soffusero di un'ombra di più accentuata alterigia, ma egli non disse parola. Talché Elizabeth, sebbene riprovasse la propria debolezza, non poté continuare. Finalmente Darcy parlò dicendo in tono forzato: Il signor Wickham è dotato di tanto garbo che può sempre andar sicuro di stringere nuove amicizie. Quanto poi ad essere altrettanto capaci di conservarle è un'altra questione. È stato così sfortunato da perdere la sua amicizia, ribatté enfaticamente Elizabeth, e in modo tale che ne soffrirà forse per tutta la vita. Darcy non diede risposta e sembrò desideroso di cambiare argomento. In quella passò il loro vicino Sir William Lucas, che voleva raggiungere l'altro lato della sala attraversando le due file dei ballerini. Scorto Darcy, si fermò con un inchino di aristocratica cortesia per complimentarlo del modo come ballava e della dama che aveva scelto. È stato davvero per me un grandissimo godimento, mio caro signore. Non capita spesso di veder danzare in modo così superlativo. È evidente che ella appartiene al gran mondo. Mi consenta tuttavia di aggiungere che la sua graziosa dama non diminuisce i suoi meriti e che devo sperare di vedere spesso ripetersi per me questo piacere, soprattutto quando un certo evento molto desiderabile, mia cara signorina Lizzy, e qui lanciò un'occhiata alla sorella di lei, a Bingley, avrà avuto luogo. Che fiume di complimenti scorrerà allora? È bello il signor Darcy, ma non voglio interromperla, signore. Lei non mi sarà certo grato di averla distolta dall'incantevole conversazione di codesta signorina, i cui splendidi occhi sembrano pure rimproverarmi. L'ultima parte della ramanzina fu colta malapena dal signor Darcy, ma l'allusione di Sir William al suo amico sembrava averlo fortemente colpito, e i suoi occhi si volsero con un'espressione molto grave verso Bingley e Jane, che stavano ballando insieme. Tuttavia, riacquistato in breve il controllo di sé, egli si volse alla sua dama per dirle: L'introduzione di Sir William mi ha fatto dimenticare di che stavamo parlando. Mi pare che non stessimo affatto parlando. Sir William non avrebbe potuto interrompere in questa sala due persone che avessero meno da dirsi. Già abbiamo tentato due o tre argomenti, ma senza successo, e non so proprio figurarmi di che cosa si possa discorrere ancora. Che ne pensa dei libri? Fece egli sorridendo. Libri? Oh no, sono sicura che noleggiamo mai gli stessi, almeno non sono i medesimi sentimenti. Mi spiace che la pensi così, ma se questo fosse il caso, non mancheremo almeno di un argomento. Possiamo confrontare le nostre diverse opinioni. No, non so parlare di libri in una sala di ballo, ho sempre tutt'altro per la testa. È sempre il presente che lo occupa, non è vero? Disse egli con uno sguardo dubbioso. Sì, sempre. Ella rispose, senza sapere che cosa si dicesse, giacché i suoi pensieri l'avevano portata lontano da quell'argomento, come si rivelò subito dopo dalla sua improvvisa esclamazione. Ricordo di averle sentito dire una volta, signor Darcy, che le riesce molto difficile perdonare, che lei il risentimento, una volta provocato, rimane inestinguibile. Ritengo che sarà molto cauto nel permettere che venga provocato. Infatti, egli rispose con voce ferma, e non si lascia mai accecare dalla prevenzione? Spererei di no. Coloro che non mutano mai l'opinione hanno il preciso dovere di giudicare in modo giusto e sin dal principio. Posso chiedere a che cosa tendono con queste domande? Semplicemente a illudermi sul suo carattere. Ella rispose cercando di mostrarsi meno severa. Sto tentando di individuarlo. E con quale successo? Ella scosse la testa. Non vengo a capo di nulla. Sul conto suo ho già udito opinioni così disparate che mi sento estremamente imbarazzata. Sono pronta a credere, gli rispose serio, che per quanto mi riguarda le opinioni possono variare grandemente. E desidererei, signorina Bennet, che lei non si mettesse proprio ora a voler fissare un abbozzo del mio carattere, poiché avrei ragione di ritenere che il mio sforzo non farebbe onore né all'uno né all'altra. Ma se non colga adesso le sue caratteristiche, può darsi che non mi si presenti più l'occasione. Non vorrei a nessun costo interrompere un suo passatempo, egli rispose freddamente. Elisabeth non parlò più e fecero l'altro giro e si separarono in silenzio, entrambi insoddisfatti, sebbene non allo stesso modo, già che nel petto di Darcy albergava nei riguardi di lei un sentimento alquanto violento, che subito le procacciò il perdono e fece convergere tutta la sua ira contro un altro. Non si erano lasciati da molto che la signorina Bingley si avvicinò a Elisabeth e con espressione di cortese disdegno l'apostrofò in questo modo. Dunque, signorina Lizzie, sento dire che lei è entusiasta di George Wickham. Sua sorella me ne ha parlato e mi ha fatto mille domande. Trovo che quel giovanotto ha dimenticato, fra le altre notizie, di darle questa. Che egli è figlio del vecchio Wickham, il maggiordomo del defunto signor Darcy. Tuttavia, come amica, mi permetta di raccomandarle di non prestare fede assoluta a tutte le sue asserzioni. Poiché è perfettamente falso che il signor Darcy l'abbia trattato male, che anzi, egli è sempre stato particolarmente buono con lui, sebbene George Wickham abbia trattato il signor Darcy in modo semplicemente infame. Non sono al corrente dei particolari, ma so benissimo che il signor Darcy non è punto da biasimare. Non può sentir nominare Wickham, e sebbene mio fratello sapesse di non poter agevolmente evitare di includere anche lui fra gli ufficiali invitati, è stato felicissimo di scoprire che si era tolto di mezzo da solo. Del resto, il fatto stesso di essere venuto in questa contrada è un'insolenza bella e buona, non c'è dubbio, e mi meraviglio che ci abbia potuto pensare. Mi dispiace per lei, signorina Lizzie, che viene a scoprire le colpe del suo beniamino, ma in realtà, se si considera la sua origine, non ci si potrebbe aspettare molto di meglio. Stando a quello che le dice, i suoi torti e la sua origine sembrano essere una cosa sola, rispose stizzita Elizabeth. Poiché io non l'ho udita infatti accusarlo di nulla di più grave che di essere il figlio del maggiordomo del signor Darcy. E di questo, glielo assicuro, fu lui stesso a informarmi. E chiedo scusa, ribatté la signorina Bingley allontanandosi con un sogghigno. Perdoni la mia intromissione. L'ho fatto a fin di bene. Insolente, disse fra sé Elisabeth. Ti sbagli di molto se credi di influenzarmi con una manovra così meschina. In tutto questo non riesco a vedere altro che la tua caparbia ignoranza e la cattiveria del signor Darcy. Poi andò in cerca della sorella maggiore, che aveva iniziato l'inchiesta sullo stesso argomento con Bingley. Jane le mosse incontro con un sorriso di così dolce compiacimento, con un lampo d'espressione così felice, da lasciar facilmente capire quanto fosse soddisfatto degli avvenimenti della serata. Elizabeth seppe a leggere prontamente in quei sentimenti e in quel momento la sollecitudine per Wickham, il risentimento contro i suoi nemici e ogni altra cosa, cedette di fronte alla speranza che Jane fosse incamminata nel migliore dei modi verso la felicità. Voglio sapere, le disse con un'aria non meno sorridente della sua, quel che hai appreso sul conto del signor Wickham. Ma forse tu sei stata troppo piacevolmente occupata per pensare a una terza persona. Nel qual caso puoi star sicura del mio perdono. No. Rispose Jane, non l'ho dimenticato, ma non ho nulla di soddisfacente da comunicarti. Il signor Bingley non è al corrente di tutta la storia e ignora le circostanze che hanno soprattutto offeso il signor Darcy, ma egli è pronto a garantire della buona condotta, della probità, dell'onore del suo amico ed è perfettamente convinto che il signor Wickham abbia meritato dal signor Darcy molta minore attenzione di quella a cui è stato fatto segno. E mi dispiace di dover dire che, stando al suo racconto, come quello di sua sorella, il signor Wickham non è certo un giovane rispettabile. Temo che abbia commesso delle grosse imprudenze e abbia meritato di perdere la stima del signor Darcy. Ma il signor Bingley lo conosce, lui, il signor Wickham? No, non l'aveva mai veduto prima dell'altra mattina a Meryton. Codesta dunque la versione che egli ne ha avuto dal signor Darcy? Mi basta. Ma che cosa dice lui del beneficio? Non si ricorda esattamente le circostanze, benché ne abbia sentito parlare più di una volta da Darcy. Ritieni però che sia stato lasciato soltanto a condizione. Non metto affatto in dubbio la sincerità del signor Bingley, rispose convinta Elizabeth, ma mi vorrei perdonare se le sue semplici assicurazioni non sono sufficienti a persuadermi. Certo, Bingley ha sostenuto abilmente la difesa del suo amico, ma poiché non è a conoscenza di parecchi punti della faccenda e il resto l'ha risaputo dal suo amico stesso, io mi arrischerò a mantenere la mia opinione sul conto di quei due signori. Poi cambiò discorso, passando a parlare di un argomento che era più gradito ad entrambe e sul quale non poteva sussistere contrasti di sentimento. Elizabeth ascoltò con gioia le liete seppur modeste speranze che Jane nutriva sul conto di Bingley e disse tutto ciò che poté per accrescere la fiducia della sorella. Allorché Bingley stesso le raggiunse, Elizabeth si ritirò verso la signorina Lucas e non aveva ancora finito di rispondere alle domande di questa sull'amabilità del suo ultimo cavaliere, quando il signor Collins le si avvicinò per dirle tutta esultante che aveva avuto proprio allora la fortuna di fare un'importantissima scoperta. Ho appreso, per strano caso, gli disse, che si trova ora in questa sala uno stretto parente della mia benefattrice. Mi è accaduto per caso di sentire lo stesso signore nominare alla signorina che ci fa gli onori di casa i nomi della sua cugina, signorina de Bourgh, e della madre di lei, Lady Catherine. È davvero straordinario come accadono certi fatti. Chi avrebbe mai pensato che qui, a questo ballo, io avrei potuto incontrare un nipote di Lady Catherine de Bourgh? Per mia gran fortuna l'ho scoperto in tempo per porgere i miei omaggi, come appunto mi appresto a fare, confidando che vorrà scusarmi per non averlo fatto prima. La mia totale ignoranza di questa parentela deve perorare il mio favore. Non vorrà andare a presentarsi al signor Darcy? Sì, invece. Lo supplicherò di perdonarmi per non averlo fatto prima, che dopo che sia il nipote di Lady Catherine. Sarò in grado di assicurarlo che sino a una settimana fa sua signoria stava benissimo. Elizabeth tentò in tutte le maniere di distoglierlo da quel proposito, assicurandogli che il signor Darcy avrebbe considerato il fatto di rivolgergli la parola senza presentazione come un'impertinente libertà, piuttosto che come un fatto di deferenza verso la zia, che non era affatto necessario che avessero contentezza uno dell'altro e che se lo fosse stato, sarebbe, se mai toccato al signor Darcy, come superiore di rango, di iniziare la conoscenza. Il signor Collins l'ascoltò con l'aria ostinata di chi vuole fare a proprio modo e quando ella si tacque, le rispose in questo modo. Mia cara signorina Elizabeth, io non ho la più alta opinione del suo infallibile giudizio su tutte le questioni comprese entro la sfera della sua competenza. Ma mi consenta di dire che è necessaria una grande diversità fra le forme di cerimoniale prescritte per i laici e quelle che invece regolano il clero. Per poiché mi conceda di osservare che io considero la professione di ecclesiastico pari per importanza al più alto ceto del regno, purché sia al tempo stesso mantenuta l'umiltà di contegno che le si addice. Lei deve perciò consentire di seguire in questo caso la voce della mia coscienza che mi esorta a compiere quel che io considero un atto di dovere. Mi perdoni se trascuro di far tesoro del suo consiglio, che mi sarà di guida costante in qualsiasi altra circostanza, benché nel caso attuale io mi stimi, per l'educazione che ho ricevuto e per l'abitudine agli studi, più atto di una signorina come lei giudicare di ciò che convenga. E con un profondo inchino la lasciò per muovere l'attacco del signor Darcy. Elizabeth ne stette a osservare attentamente l'accoglienza, né mancò di rilevare la palese meraviglia di lui nel vedersi oggetto di questi approcci. Il cugino fece precedere il suo discorso da un inchino solenne e, sebbene non potesse udirne una parola, parve ad Elizabeth di ascoltarlo per intero e colse dal movimento delle labbra di lui le parole «perdonare», «Hansford» e «Lady Catherine de Bourgh». La irritava di vederlo esporsi al ridicolo davanti ad un uomo come quello. Il signor Darcy gli lanciava occhiate di non celato stupore. E quando infine il signor Collins gli diede modo di parlare, gli rispose con tono di fredda cortesia. Ciò non valse tuttavia a scoraggiare il signor Collins dal riprendere la parola, e il disprezzo del signor Darcy parve crescere di molto con le lungaggini del secondo discorso, alla fine del quale accennò soltanto un leggero inchino, e gli si diresse da un'altra parte. Allora il signor Collins tornò da Elizabeth. Non ho motivo, glielo assicuro, le disse di essere scontento dell'accoglienza che ho ricevuta. E il signor Darcy mi è sembrato molto compiaciuto di questa attenzione. Mi ha risposto con la massima cortesia e mi ha persino usato il riguardo di dirmi che era così persuaso del buon senso di Lady Catherine da essere sicuro che mai avrebbe collocato meno che degnamente il suo favore. È stato davvero un pensiero molto fine. Nel complesso mi ha molto soddisfatto. Elizabeth, che ormai non aveva più alcun interesse su suo proprio da seguire, rivolse quasi del tutto la sua attenzione alla sorella e al signor Bingley, e la catena di piacevoli riflessioni cui i suoi pensieri diedero origine la rese quasi altrettanto felice che Jane. La vide idealmente sistemata proprio in quella stessa casa, in mezzo a tutta la felicità che può dare un matrimonio di vero amore, e si sentì capace, in quella circostanza, di sforzarsi di trovar simpatiche perfino le due sorelle di Bingley. Vide chiaramente che i pensieri di sua madre avevano preso la stessa piega e risolvette di non arrischiarsi ad avvicinarla per timore di dirne troppe. Per questo, quando si sedettero per la cena, le parve che fosse proprio l'avverso destino a collocarla a distanza di un solo commensale da lei, e fu profondamente contrariata di scoprire che proprio a quell'unico commensale, Lady Lucas, sua madre stava parlando liberamente, apertamente ed esclusivamente della sua speranza di veder presto Jane sposata al signor Bingley. Era un argomento che citava il suo estro e la signora Bennet sembrava incapace di stancarsi nell'enumerare tutti i vantaggi di una simile unione. Il fatto che fosse un giovanotto così simpatico, così ricco e che abitasse a solo 3 miglia da loro erano i suoi principali motivi di soddisfazione. E poi era un tal conforto pensare che le due sorelle di lui fossero tanto affezionate a Jane che anche loro desiderassero quanto a lei quella unione. Per di più, era una cosa molto promettente per le sue figliole minori, poiché il fatto che Jane facesse un così bel matrimonio le avrebbe portate a incontrare altri uomini ricchi. E infine era così piacevole alla sua età poter consegnare le figlie nubili alle cure della loro sorella, così da non essere costretto ad andare in società più di quanto desiderasse. Era necessario, giacché in quelle circostanze l'etichetta che lo richiede, trovar diletto in simili avvenimenti. Ma non c'era nessuno che più di lei, della signora Bennet, trovasse un gran conforto nello stare a casa in qualunque momento della vita. Concluse con molti affettuosi auguri a Lady Lucas di essere presto altrettanto fortunata, per quanto evidentemente trionfalmente sicura che non ve ne fosse la minima probabilità. Invano Elizabeth cercò di frenare la profluvia di parole della madre, invano cercò di persuaderla a descrivere la propria felicità con un bisbigliar più sommesso. Infatti, con suo estremo disappunto, si era accorta che l'essenziale era giunto all'orecchio del signor Darcy, seduto di rimpetto a loro. La madre la rimproverò di non essere che una sciocchina. «E chi è per me il signor Darcy, di grazia, perché io debba aver timore? Certamente non gli dobbiamo una deferenza così particolare da essere costrette a non dir cosa che gli torni sgradita». «Per amor del cielo, mamma, parli più sottovoce. Che cosa ci guadagna offendere il signor Darcy?» Non otterrà mai il favore del suo amico facendo in tal modo. Per quanto dicesse, tuttavia, non riuscì a sortire effetto. La madre continuava a parlare dei suoi progetti nello stesso tono intelligibile Elizabeth si faceva sempre più rossa dalla vergogna e dalla stizza. Non poteva trattenersi dal lanciare frequenti occhiate al signor Darcy, ma ogni occhiata la convinceva di quanto aveva temuto. Infatti, sebbene egli non guardasse continuamente dalla parte di sua madre, Elizabeth sentiva che l'attenzione di lui ne era costantemente attratta. L'espressione del suo volto andava man mano mutando da sdegnoso disprezzo a una composta e pensosa gravità. Ma venne finalmente il momento in cui la signora Bennet non ebbe più nulla da dire e Lady Lucas, che da un pezzo stava sbadigliando nel sentir ripetere delizie che non vedeva possibilità di condividere, fu lasciata alle consolazioni del prosciutto freddo e del pollo. Allora Elizabeth si sentì rivivere, ma l'intervallo di tranquillità non durò a lungo, poiché finita la cena si venne a parlare del canto ed ella provò l'umiliazione di vedere Mary, che pregata sola appena appena si disponeva a far piacere alla compagnia. Ella cercò bensì di prevenire con molte occhiate piene di significato, con molte tacite preghiere, una simile dimostrazione di condiscendenza. Invano, Mary non capiva. Un'occasione come quella per mettersi in mostra le era graditissima e cominciò la sua canzone. Gli occhi di Elizabeth erano fissi su di lei, in preda alle più spiacevoli sensazioni. Seguiva lo svolgimento della canzone attraverso le varie strofe con un'impazienza che alla fine fu molto mal compensata, giacché Mary, ricevuti i ringraziamenti della tavolata, sentendo fra l'altro esprimere la speranza di rinnovarsi di un tanto favore, dopo una pausa di mezzo minuto cominciò un'altra canzone. Le capacità di Mary non erano assolutamente all'altezza di una tale dimostrazione, aveva una voce debole e un'dizione ostentata. Elizabeth si sentiva morire. Guardò Jane per vedere come sopportasse la cosa, ma Jane conversava tranquillamente con Bingley. Guardò le due sorelle di lui e le vide scambiarsi cenni di derisione l'una con l'altra e cercare di ammiccare a Darcy, che si manteneva però imperturbabile nella sua austerità. Lanciò un'occhiata a suo padre per supplicarlo di intervenire nel timore che Mary continuasse a cantare tutta la notte. Egli la capì al volo e quando Mary ebbe terminato la seconda canzone disse ad alta voce: «Va benissimo così, figliola! Ci hai deliziato abbastanza! Date un po' anche alle altre signorine di prodursi!» Sebbene facesse finta di non udire, Mary rimase alquanto sconcertata ed Elizabeth, addolorata per lei e dispiaciuta per le parole del babbo, temette di aver provocato dei guai con tutte quelle sue ansie. Furono sollecitati allora altri componimenti della compagnia. «Se io, disse il signor Collins, avessi la fortuna di saper cantare, proverei gran diletto, se son sicura a far piacere ai convitati con una canzone». Poiché considero la musica uno svago innocentissimo, perfettamente compatibile con la professione ecclesiastica. Non intendo asserire, tuttavia, con questo che si possa essere giustificati dedicando troppo del nostro tempo alla musica, perché indubbiamente vi sono altre cose cui attendere. Il rettore di una parrocchia ha molto da fare. Prima di tutto deve cercare di raggiungere un accordo concernente le decime, che possa essere vantaggioso per sé senza ledere gli interessi del patrono. Deve scrivere i propri sermoni e il tempo che gli rimane non sarà troppo per i suoi doveri parrocchiali e la cura e l'abbellimento della propria abitazione, che egli deve cercare ad ogni costo di rendere confortevole il più possibile. Ne io tengo in poco conto il fatto che sappia mantenere un contegno premuroso e conciliante con tutti, specialmente verso coloro ai quali deve il proprio avanzamento. Da un tal dovere non posso esimerlo, né potrei pensar bene di lui che trascurasse l'occasione di testimoniare il suo rispetto verso chiunque fosse imparentato con quella famiglia. E con un inchino al signor Darcy, concluse il discorso che aveva pronunciato a voce abbastanza alta per farsi ascoltare da metà della sala. Molti stupirono, molti sorrisero, ma nessuno si mostrò più divertito del signor Bennet, mentre sua moglie elogiava in tutta serietà il signor Collins per aver parlato con tanto buon senso e sottovoce faceva osservare a Lady Lucas che giovane intelligente da bene gli fosse. Pareva ad Elizabeth che se i suoi familiari si fossero messi d'accordo per rendersi ridicoli quella sera, sarebbe stato loro impossibile di sostenere le parti con maggiore spirito e con più brillante successo. E ritenne una fortuna per Bingley e sua sorella che parte di questa esibizione fosse sfuggita all'attenzione di lui e che gli fosse dotato di spirito con facile a turbarsi per le sciocchezze alle quali aveva dovuto assistere. Era però un guaio abbastanza serio che alle due sorelle di lui e al signor Darcy fosse stata offerta la possibilità di beffarsi dei suoi parenti e non avrebbe saputo dire se fosse più insopportabile il muto disprezzo del giovane o gli insolenti sorrisi delle signore. Il resto della serata le procurò scarso divertimento. Era perseguitato dal signor Collins, che si manteneva costantemente al suo fianco, e benché non riuscisse a indurla a ballare ancora con lui, la mise nell'impossibilità di ballare con altri. Invano ella lo supplicò di mostrarsi assiduo con qualche altra dama, la quale si offerse di presentarlo. Egli le assicurò che a ballare non ci teneva affatto e che il suo scopo precipuo era quello di rendersi accetto a lei con delicate attenzioni. Avrebbe dunque insistito nel rimanerle accanto tutta la sera. Davanti a una simile prospettiva era inutile discutere. Tutto il sollievo che provò lo dovette alla sua amica, la signorina Lucas, che si unì spesso a loro e fu tanto buona da impegnare il signor Collins nella conversazione. Alla fine si sentì liberata dall'insulto che le recava ogni ulteriore attenzione da parte di Darcy. Benché sovente si trovasse a pochissima distanza da lei, affatto disponibile, non si avvicinò mai abbastanza da parlarle. Pensò che ciò derivasse probabilmente dalle proprie allusioni al signor Wickham e se ne rallegrò. La famiglia di Longbourn fu l'ultima di tutta la compagnia ad accomiatarsi e, grazie ad una manovra della signora Bennet, dovette rimanere in attesa della carrozza un quarto d'ora dopo che tutti se ne erano andati, il che permise loro di constatare con quanto entusiasmo altri membri della famiglia si augurassero la loro partenza. La signora Hurst e sua sorella aprirono a stento la bocca, se non per lamentarsi di essere spossate, evidentemente impazienti di avere la casa per loro. Respinsero ogni tentativo di conversazione da parte della signora Bennet, provocando in tal guisa un certo languore nell'intera compagnia, poco confortata dagli sproloqui del signor Collins. Questi non si stancava di felicitarsi con Bingley e le sue sorelle per l'eleganza del trattenimento e per la generosa cortesia che aveva caratterizzato il loro contegno nei riguardi degli invitati. Darcy non disse una parola. Il signor Bennet, altrettanto muto, si godeva la scena. Il signor Bingley e Jane se ne stavano in piedi un po' appartati e non parlavano che fra loro. Elizabeth mantenne un silenzio non meno costante di quello della signora Hurst e della signorina Bingley, e persino Lydia era troppo sfinita per lasciarsi andare oltre l'esclamazione: «Dio, come sono stanca!» ripetuta di tanto in tanto e accompagnata da un violento sbadiglio. Quando infine si alzarono per salutare, la signora Bennet espresse con insistente cortesia la speranza di veder presto tutta la famiglia Longbourn e si rivolse in particolare a Bingley, assicurandolo del piacere che avrebbe fatto a tutti loro andando in qualunque momento a consumare con loro un pasto di famiglia senza le cerimonie dell'invito formale. Bingley era tutto riconoscente e compiaciuto e si impegnò prontamente ad andarla a far visita al più presto dopo il suo ritorno da Londra, dove doveva recarsi l'indomani per un certo tempo. La signora Bennet fu pienamente soddisfatta e lasciò la casa nelle piacevoli persuasioni che, tenuto conto dei necessari preparativi per la sua sistemazione, le carrozze nuove e il corredo, avrebbe indubbiamente visto sua figlia accasata a Netherfield entro i prossimi 3 o 4 mesi. Di avere un'altra figlia maritata al signor Collins si riteneva altrettanto certa e con notevole, sebbene non uguale, piacere. Di tutte le sue creature, Elizabeth le era la meno cara, e benché il giovanotto e il partito per lei andassero benissimo, il valore dell'uno e dell'altro veniva eclissato dal signor Bingley e da Netherfield.